Lei ha definito anche Equitalia usura di Stato. Davvero la pensa così? Guardi, quando per colpa delle procedure, perché so bene anch'io che Equitalia agisce in forza di legge, non è che se lo inventano, ma per colpa delle procedure i cittadini vengono condotti a pagare tutto e di più senza un minimo di possibilità di decisione, di trattativa, di discussione attorno alle questioni che vengono contestate, quando in molti casi addirittura bisogna pagare prima del contenzioso, io credo che ci siano leggi sbagliate, allora quelli che stanno in Parlamento le devono correggere, altrimenti si arriva all'usura. Ci arriva all'usura. Però sì, è vero, lei non è in Parlamento, ma Equitalia dice è anche una situazione sociale molto molto tesa, nel quale non crede che anche il peso delle parole siano molto importanti. Poi c'è gente che magari arma la mano e va a mettere una bomba, come è successo anche a Equitalia a Livorno. In effetti lei ha ragione, il peso delle parole io l'ho subito qualche settimana fa, ho tentato di andare a fare un comizio per le elezioni comunali, pensi un po', nel centro della Toscana, a Cavaglione, ma il candidato sindaco ha fatto una mobilitazione di quelle che si dicono antifasciste, come se ci fosse qualcuno che vuole introdurre il fascismo in Italia, e mi ha impedito di parlare. Non era un candidato dell'ultrasinistra, era un candidato del Partito Democratico. Ecco, io credo che le parole rischiano di creare effetti esplosivi. Io che sono una persona responsabile non ci sono andato a fare quel comizio per non esporre ad incidenti i militanti del mio partito, ma non credo che questo sia molto democratico. Questo no, ma io questa vicenda non la sapevo, lei l'ha denunciato, no, ma io mi riferivo anche a quello. Ha denunciato, ma nessuno ne ha parlato. No, ma infatti lei è qui a dirlo, però io mi riferivo anche all'uso delle parole sue quando dice si rischia di arrivare all'usura di Stato, eccetera. Poi magari una persona che prende questo e dice, ma sai che c'è, io adesso prendo uno di Equitalia e gli do un cazzotto, giusto per dire. No, questo lo deve dire chi organizza le manifestazioni violente. Guardi, però è un po' curioso questo modo di ragionare, mi perdoni se glielo contesto. Io credo di aver diritto di protestare quando c'è una situazione che non mi piace, quando ci sono le banche che impediscono a chi non ha il passamontagna di accedere a risorse, quando c'è la Banca Centrale Europea che fa e disfa i governi del nostro paese, quando la sovranità del nostro popolo è seriamente compromessa, quando il fisco opprime i cittadini, si può almeno protestare? Protestare sì, questo sì. Ecco.